stai suonando, Walter? Sento la batteria bassissima. Sento la batteria bassissima. Bassissima. Sempre molto bassa, non capisco perché. Sempre bassa. Mauri, dimmi. Mi puoi aumentare? Guarda che a fianco al mio nome. Ah, perfetto, perfetto. Ok, ok, suona. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back.